Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non posso sapere quanto tempo trascorsi in quella condizione. Forse poi un rumore da qualche parte mi distrasse. Allora presi il cellulare e constatai che non riceveva alcun segnale. Fino a qualche anno prima non me ne sarei nemmeno accorta, ma in questo caso la tecnologia mi fece rendere conto di cosa era successo. Semplicemente mi ero persa. Ciao, mi chiamo Laura Vacca, ho 38 anni e vivo a Magenta. Sono appassionata di storie di crimine e adoro andare in bicicletta. La seconda volta di ogni cosa è sempre più semplice della prima. La prima volta tutto sembra più grande, sembra più difficile, più pericoloso, tutto fa un po' più paura. Invece la seconda volta di un nuovo lavoro, ad esempio, sembra già più semplice. L'amore la seconda volta lo riconosci un po' meglio, poi magari fai vaccate comunque, però un po' lo riconosci. Ma anche la ricetta dei pizzoccheri, no? La seconda volta sembra semplice. Allo stesso modo, quando arrivi in un posto nuovo, tutto è talmente sconosciuto che ti rimangono attaccati solo dei dettagli, solo dei pezzi. Cioè non è che riesci a vedere il totale, non riesci a mettere a fuoco bene le cose. La prima volta di ogni cosa hai sempre bisogno di una mappa. Magari con sopra scritto «Voi siete qui». Cioè hai bisogno di vedere dove sei e dove devi andare. Però tutto sembra remoto, tutto sembra lontano, tutto sembra complicato. La seconda volta invece già la mappa non ti serve più, perché hai preso dei riferimenti, no? Perché ti ricordi gli angoli delle strade, gli angoli delle cose, non ti serve un navigatore. Non ti serve perché anche un po' ti piace, cioè ti dà soddisfazione il fatto di ritrovartici, di riconoscere i posti, le facce, le situazioni. La seconda volta magari non è meglio della prima, non sempre, però è sicuramente più semplice. Ecco, oggi tocca a tutti quelli che la prima volta si sono persi, mentre la seconda volta non hanno già più avuto bisogno di una mappa. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Sono le 16:11 addirittura, oggi è mercoledì 26 ottobre del 2011, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e ho detto tutto, eh? E voi siete qui anche, a posto, musica, no. Quando dici la seconda volta, anche quando dici la prima volta, forse di più, però quando parli di seconda volta o di prima volta, ognuno attribuisce a quella volta la sua volta, qualunque essa sia. Poi abbiamo fatto una ricerca prima e chiaramente se tu metti seconda volta su Google, ovviamente viene solo robe tipo la seconda volta fa male, la seconda volta sangue, la seconda volta dolore, la seconda volta non si scorda mai, che credo sia un film perché c'è lo streaming. Ma tant'è, ognuno attribuisce a quella volta lì la propria volta, qualsiasi cosa sia. E Silvia, ad esempio, mi ha scritto un messaggio sul profilo Facebook che è più generale e dice: la prima volta sbaglio male, perché in fondo lo so che non va bene e questa cosa mi condiziona. La seconda volta sbaglio un po' meglio, perché sì, ci ho fatto quasi l'abitudine, quindi dico: non mi sono fatta male la prima, perché dovrei farmi male la seconda. Ci cado per la terza volta, perché dico: stavolta gestisco tutto razionalmente e non mi faccio fregare. Alla quarta volta, se tutto va bene, un campanello d'allarme suona col silenziatore. Alla quinta, tutto così è naturale. E allora perché fermarmi? 349-238-6666, qualunque sia stata la vostra seconda volta di qualsiasi cosa, se è stata più facile delle prima e se avete voglia di raccontarmele. Marco invece mi scrive, che poi è Marco Drago, che è l'amico di Chiedo Asilo. In tedesco si dice Einmal ist keinmal o keinmal, che vuol dire una volta non basta. Questa storia comincia in una foresta nei pressi di Vancouver, in Canada. C'ero finita durante un viaggio più lungo e complesso che mi avrebbe portato in giro per il mondo. Era un progetto che avevo da tempo e che contemplava anche di perdersi ogni tanto, tra una meta e un'altra, senza però perdere mai la direzione, lasciandosi però la possibilità di conoscere orizzonti nuovi, facce mai viste. Insomma, un giorno stavo girovagando per la periferia di Vancouver e vidi quello che poteva sembrare un enorme parco. In realtà in quei mondi le dimensioni sono tutte diverse e ai miei occhi quella in realtà era una foresta, una specie di piantagione fitta, selvaggia. La nebbia era intensa e oscurava gran parte della visuale, però decisi comunque di addentrarmici. E ancora oggi mi chiedo dove sia quella parte di me così avventurosa e coraggiosa. L'idea del fare il viaggio da sola era una cosa che avevo progettato da tantissimo tempo. Poi l'idea di avventurarmi sinceramente non è stata un'idea mia, nel senso che mi sono proprio trovata davanti a questa foresta, ho detto ah vabbè, vediamo, sono abbastanza curiosa, quindi ho detto ma proviamo a entrare qua dentro a vedere cosa c'è. Cominciai un lungo cammino senza una meta precisa, mi incuriosiva a vedere se al di là di quella natura selvaggia, da qualche parte, ci fosse, che so, un baretto, un ufficio del turismo, qualcosa di umano in un luogo che di umano aveva solo il cancello dell'entrata. Camminando a volte nella nebbia, però, persi un po' la cognizione dello spazio e del tempo. Ed era come se in realtà non mi trovassi in nessun luogo. Fu anche una bella sensazione, perché per la prima volta riuscii a non pensare a niente. E nel farlo vedevo come me stessa camminare passo dopo passo dall'alto. Sinceramente non posso sapere quanto tempo trascorsi in quella condizione. Forse poi un rumore da qualche parte mi distrasse, no? E allora presi il cellulare e constatai che non riceveva segnale. Fino a qualche anno prima forse non me sarei nemmeno accorta. Però in questo caso la tecnologia mi fece rendere conto di che cosa era successo. Semplicemente mi ero persa. La consapevolezza però di non poter condividere questa paura con nessuno mi fece sentire inesistente. Per la prima volta sentivo di non avere possibilità. Le possibilità sono qualcosa che normalmente uno scarta oppure sceglie di ignorare. Vabbè, non ci soffermiamo mai a pensare a come saremmo se non ne avessimo alcuna di possibilità. Comunque l'istinto diceva di proseguire verso sinistra e forse era quella la mia unica possibilità. Allora forse non ero poi tanto sola. E dopo un'ora di cammino ne fui fuori. Qualche giorno dopo mi trovai in un bar a leggere un quotidiano locale. Un articolo parlava di quanti turisti incoscienti vengono trovati cadavere nelle foreste della zona. La prima cosa che ho pensato è stata: per fortuna che questo articolo non l'ho letto ieri o l'altro ieri, se no sarei veramente morta di paura. Quando poi, leggendo l'articolo, inizialmente ho pensato oddio, l'ho scampata bella, poi però ti rendi veramente conto che queste cose purtroppo accadono. Attratti dalla natura selvaggia, ignorano i pericoli che questi luoghi nascondono. Iniziava così l'articolo, che proseguiva con descrizioni delle fauci di orsi affamati o di dirupi scoscesi. In quel momento non mi sentii particolarmente fortunata e nemmeno una sciagurata, come voleva farmi credere il giornalista. Mi convinsi che in fondo quel cammino non era poi molto diverso dai percorsi che noi tutti affrontiamo ogni giorno, no? In qualsiasi parte della terra. Perché è accaduto a ognuno di noi di perdersi in qualche foresta. Magari alla ricerca di qualcosa che alla fine non era nemmeno così importante. Laura si è persa in un parco pubblico, che sembra ridicolo, ma forse perché siamo abituati ai giardini di Via Palestro o al massimo a Parco Sempione, e lì veramente per perdersi bisogna avere fumato tutto quello che ti propongono. E io poi non fumo nemmeno le sigarette. Però io Laura un po' la capisco. Sì, perché non c'era solo la questione della grandezza del bosco a farle perdere la bussola, ma anche il fatto che non c'era mai stata. Non sapeva cosa aspettarsi e non aveva alcuna strategia. Lei stava solo passeggiando, non stava facendo un corso di orientamento tipo Boy Scout. Cioè non aveva la percezione del pericolo. E allora quando tutto ad un tratto ti trovi che l'orizzonte è cambiato e non lo sai riconoscere, cioè quando vedi che i tuoi punti di riferimento sono scomparsi, quando dovunque ti giri non riconosci nulla di familiare, puoi essere anche in uno spazio minuscolo, ma la via di fuga sembra irraggiungibile. D'altronde, no, quando si dice perdersi in un bicchiere d'acqua, no, non si parla a caso. Vuol dire che sì, è raro, però che succede. Qualche volta. A qualcuno. E poi sì, è successo anche a me. E anche a me è successo in Nord America. Non lo so perché succeda spesso lì, forse perché quando noi italiani ci andiamo da turisti ci sembra di poter dominare tutto, no? Con i film, i telefilm che abbiamo visto, le canzoni che abbiamo sentito, i libri, le guide che abbiamo letto. Viviamo, o perlomeno io vivo un po' l'America come fosse una specie di casa mia, solo che sta dall'altra parte dell'oceano. E invece non è così. Lì ci sono le sequoie, I boschi sono grandi milioni di chilometri quadrati. Gli orsi mangiano nei rifiuti delle grandi città. E puoi viaggiare per ore e ore in macchina senza incontrare nessuno. Dipende dove sei, questo è chiaro. Però può capitare di trovarti in una condizione in cui sei tu e nessun altro. E per tanto tempo. Io ero nel Vermont, in un villaggio magico alla fine della strada, come dicono loro. Ero ospite di un bed and breakfast quasi in cima a una collina boscosa, a pochi metri dall'unica altra casa della zona. Avete presente quando vi capita di essere in una condizione sconosciuta, tipo il silenzio assoluto? Oppure quando la notte è così buia che sembra nera? Ecco, quello era un posto così. Eravamo appena arrivati, ed era pomeriggio, mi pare. E il padrone di casa a un certo punto ci ha detto di andare a fare un giro, andare a fare due passi lì intorno, che era tutta proprietà sua. E disse che se andate nel bosco basta seguire il sentiero, e quando ci sono dei bivi tenete sempre alla destra. Si gira intorno a una collina e in una mezz'oretta siete a casa. E forse, se siete fortunati, potete anche vedere le impronte dell'alce. E quindi noi siamo usciti, e sembrava tutto molto romantico. Solo che dopo 200 metri ci siamo accorti che la loro concezione di sentiero è abbastanza vaga, e che tenere la destra è facile, ma quando sei nel bosco perdere i punti di riferimento è un attimo. E quindi a ogni passo credevamo di aver sbagliato, e lì basta tornare indietro una volta per controllare che il tuo cervello va in disordine. E allora ci siamo persi, che sembravamo The Blair Witch Project, nel silenzio, col tramonto che arrivava. E abbiamo camminato quasi tremando e tenendo sempre alla destra, col terrore però di girare in tondo senza mai poter tornare a casa, col telefono senza segnale e nessuno ad aspettarci. Il tutto è durato non tanto, 10 minuti, ma lo ricordo come fossero adesso. Abbiamo ritrovato un muretto a un certo punto, molto preciso, e dopo pochi minuti eravamo a casa. E ci sembrava di aver attraversato la Russia, di ritorno dal fronte. Ma quando abbiamo guardato la cartina della proprietà, quella che c'era appesa all'ingresso, abbiamo scoperto che praticamente avevamo fatto giusto un giro dell'isolato. Il fatto è che quando ti perdi, tutto diventa più grande, tutto diventa più buio, pericoloso, tutto sembra diverso da com'è, perché te lo stai costruendo in testa. E siccome noi non siamo quasi mai gentili con noi stessi, le cose misteriose ce le costruiamo sempre più pericolose, sempre più grandi di quello che sono. E non lo so perché, forse è un retaggio di quando eravamo animali e dovevamo essere sempre pronti a un agguato, no? Sempre allerta. Poi la seconda volta invece è sempre più facile. È un po' come quando sono entrato per la prima volta in uno stadio ed era pieno di gente e io ero piccolino e mi sembrava tutto pericolosissimo e tutto spaventoso. Alla fine andò bene e imparai un sacco di cose. E la volta dopo sapevo tutto, avrei potuto portarci mio padre, tanto che mi sembrava di essere come in camera mia. La seconda volta non ti perdi mai. Alessandro dice: quando è nato Samuele avevamo una paura infinita di non saperlo crescere. Dalle cose più semplici riferite alla mera sopravvivenza partivamo per perderci in bicchieri d'acqua. Quando è arrivata Anna, no, sapevamo già come fare tutto e tutto è diventato magicamente semplice. 349-238-6666, se è vero oppure no che la seconda volta è un pochettino più semplice della prima. Io non so se Laura c'è tornata una seconda volta in quel bosco. Certo è che la prima alla fine è andata bene, però insomma non è uscita proprio indenne. Pronto Laura? Pronto Matteo, ciao. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Dove sei? A Magenta in questo momento? Sì, sono a Magenta. Magenta, Magenta era proprio una delle tappe che sulla Novara-Milano era Trecate, Magenta, Bro, sì, sì, Pero. Sì, forse la più trafficata, la linea più trafficata, che penso, della Milano-Torino. Laura, che cosa fai nella vita? Allora, io sto cercando lavoro. Beh, un po' tutti noi stiamo cercando lavoro, nel senso che non si sa mai dove saremo tra due mesi, però... la differenza è che io non ce l'ho adesso. Però in generale, sì, vabbè, ma guarda, mi sembra davvero meno complicato di quanto sembri rimanere senza. Senti, però che cosa facevi, cosa vorresti fare, cosa hai studiato? Sei studiato? Allora, è un po' complicato, perché nel senso io non vivevo in Italia prima e mi sono, diciamo, da moltissimo ritrasferita qui. Okay. Ed è per questo che non ho lavoro. Però prima ho lavorato molto coordinare progetti principalmente nel sociale. Lavoravo. Ma dove abitavi? Dove vivevi? A Londra. Ah, ok. E perché sei tornata in Italia? Per motivi di forza maggiore, okay. Che non dipendono da me. Va bene, ok, è chiaro. Senti, invece, al di là del fatto che è chiaro che quasi non ti eri neanche accorto che te l'hai persa in realtà, semplicemente perché hai visto che non c'era segnale sul cellulare e hai detto wow. No. Infatti tu stavi dicendo che il Nord America è facile perdersi, ma secondo me sì, perché secondo me loro hanno un rapporto col selvaggio, con la vita selvaggia. Noi siamo più improntati verso la sicurezza, penso, no? Poi soprattutto dove vivevano in Inghilterra, cioè ci sarebbero stati dei segnali in quel parco, ci sarebbe stato un cartello che ti dice guarda che qua il cellulare non funziona più. Invece io mi sono... Cioè tu dici in Europa ci sarebbero stati? Sì. E in America sì, no? Sì. No. E infatti, vabbè, sono stata su una montagna dove c'erano degli orsi, vabbè, erano in gabbia. Però... Il tutto da sola? Sì. Ma sì, scusa, quando dici che questo era una tappa di un viaggio più ampio, intendiamo che viaggio era? Io praticamente ho preso un aereo un giorno e sono andata a Vancouver e ci sono rimasta per 10 giorni. Ma perché? Ed era un viaggio di Vancouver e ritorno? Oppure era Sì, ritorno. Ah, ok, no. Io volevo andare da sola, da qualche parte da sola. E hai scelto Vancouver? Sì. Perché? Allora, molti motivi, vabbè. Prima di tutto perché secondo me il mio primo viaggio da sola è una città molto sicura, diciamo. Diciamo certo, boschi e parchi a parte, certo. Esatto. Poi è una città bellissima, stupenda, è sempre fra le città più belle del mondo, sai quando fanno le varie statistiche, sì. Infatti è stupenda. E poi mi sembrava, ho detto, in America non ci sono mai stata, vabbè, un buon modo per cominciare. Senti, e poi ti saluto Laura, questa passione per le storie di crimine? Ah, mi piacciono tutte le storie in cui, insomma, c'è un morto, mi piace dirlo, però mi piacciono tutte le indagini, il DNA, tutte le varie... Benissimo, mi piacciono le storie in cui c'è un morto. Ti lascio con un'ambulanza che passa da qualche parte a Magenta. Ti ringrazio per... Non è colpa mia però. Non è colpa di nessuno. Ti ringrazio per la chiacchierata e il racconto, Laura. In bocca al lupo per tutto. Ringrazio te, grazie. Ciao, buona giornata. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina Voi siete qui, e vi consiglio di andare a vederla, Laura ha qualcosa di strano, che diciamo ha un occhio attento, salta immediatamente all'occhio appunto, ma a uno meno attento no, per cui diciamo in sostanza ha i capelli che non sono i suoi, ha una parrucchia bianca direi, è leggermente truccata, si vede pochissimo intorno, quindi non si capisce dove sia, non si capisce cosa stia facendo, però ho la sensazione che sia una festa in maschera. 349-238-6666. Renata da Vicenza dice: boschi e cadaveri, consiglio di leggere Nei boschi eterni di Vargas. E poi invece Cesare, Andrea mi ha scritto: quando perdo un lavoro sul computer o devo rifare una cosa, è il mio motto consolatorio quello che la seconda volta riesce sempre meglio, perché alla fine hai una visione d'insieme, dice, hai una visione migliore e funziona. Cesare invece dice: sì, fatti cannare due volte a scuola, poi dimmi se la seconda volta è andata meglio. E poi invece Lucia ha scritto, sempre per quanto riguarda il fatto che se tu dici la seconda volta o la prima volta, ciascuno immagina quella cosa che sta vivendo o quella volta che sta vivendo in quel momento. Lucia scrive: la prima volta sono arrivata all'appuntamento 2 ore prima, ho aspettato in un bar vicino, alle 15 sono entrata nello studio, mi tremavano le gambe su quelle obbligate scarpe con il tacco, mi sudavano le mani. Alla fine del colloquio ho pensato a tutto quello che avrei voluto dire e non ho detto, ma quel posto è andato a me. La seconda volta avevo le ballerine, sono arrivata solo mezz'ora prima e ho detto tutto quello che avrei voluto dire, ma non mi hanno dato quel posto. Domani sarà la terza volta, andrò con un tacco medio, arriverò solo 15 minuti prima del colloquio e a domanda risponderò. C'è un post-scriptum. La prima volta te l'ho raccontata durante la puntata in cui si parlava della telefonata che ti ha cambiato la vita. E mentre stavamo parlando al telefono in diretta, mi è arrivata una loro mail. Portami fortuna anche questa volta. 349-238-6666. In questo caso si parla di colloquio e in altri invece si parla di qualsiasi volta sia stata la vostra volta. Elisabetta scrive: la seconda volta non c'è più l'emozione della prima, diventa già quasi tecnica. Sì, lo so, l'ho già fatto e per questo è più difficile, non si può sbagliare e deve riuscire per forza, perché da lì si decide se arriverà la terza o più facilmente l'abbandono. Non si sa di cosa si parla in questo caso, ma tant'è. È arrivata invece una mail un pochettino più corposa e più lunga ed era per questo che in apertura parlavo della ricetta dei pizzoccheri, perché la seconda volta della ricetta dei pizzoccheri può essere anche un'altra seconda volta. Caro Matteo, nel mio caso la seconda volta non è stata solo più facile della prima. La seconda volta ho capito che la prima avevo proprio sbagliato tutto. Vivevo da sola da qualche anno, ma non avevo mai organizzato una cena a casa mia. E così un paio di anni fa decisi di organizzarne una con amici e soprattutto con lui. Lui è scritto maiuscolo. Il ragazzo del quarto piano, che mi piaceva da quando mi ero trasferita lì e che incontravo sempre solo lungo le scale. Per la serata avevo deciso di preparare una ricetta tipica della mia zona, i pizzoccheri della Valtellina. La ricetta per 4 persone non è complicata. Ci vogliono 400 g di farina di grano saraceno, 100 g di farina bianca, 200 g di burro, 250 di formaggio Valtellina casera, 150 di formaggio grana, 200 di verze, 250 di patate, uno spicchio d'aglio e del pepe. Ammetto che speravo che quella cena potesse servire a riempire le pance e soprattutto a farmi notare da lui, lui scritto in maiuscolo, del quarto piano. Fu una serata terribile. I pizzoccheri erano vomitevoli, sembravano un blocco di mattone condito con del burro e del parmigiano. Gli ospiti non mangiarono altro che un po' di prosciutto e della frutta. Lui sorrise e fu cordiale, per tutto il tempo, ma quando se ne andò, sparì. Ma letteralmente sparì. Non so se è trasferito altrove, ma ti giuro che non l'ho più visto. Ecco, da allora, da 2 anni fa, non ho più preparato quel piatto. Fino a 3 mesi fa, quando ho deciso di riprovarci, ma questa volta con un altro gruppo di amici e amici di amici. I pizzoccheri, questa seconda volta, erano squisiti. Gli ospiti contenti e soprattutto ho conosciuto Michele. Beh, mi piace pensare che Michele sia la mia seconda volta, quella riuscita. Quella in cui gli ingredienti sono dosati per bene e i contorni delle cose sono più definiti. Mi piace pensare che già dalla prossima volta, quando preparerò i pizzoccheri, la ricetta non mi servirà più. Ciao! You think you got it, oh, you think you got it, but got it, just don't get it till there's nothing at all. We get together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. If what they say that nothing is forever, what makes love the exceptions? Why, oh, are we so in denial when we know we're not happy? C'è un signore che sceglie la musica che sentite tutti i giorni in onda su questo programma ed è giusto ricordarlo ogni tanto. Si chiama Tiziano Bonini. Tutti i pezzi che sentite, anche quello che avete sentito adesso, che è una cover di Heya degli Outcast, che in questo caso è cantato da un tizio, da un signore che si chiama Obadiah Parker, lo dico per tutti quelli che magari sono davanti a internet e hanno voglia di cercarsela, è un pezzo pregevole che ha tirato fuori non so da dove. Comunque, tutta la playlist, cioè tutti i brani che noi mandiamo in onda tutti i giorni, sono sul sito di Radio 24. Ve lo dico perché spesso me lo chiedete su Facebook, però è un po' complicato trovare tutti i giorni, insomma, scrivere tutti i brani tutti i giorni, e li trovate sul sito radio24.it, alla pagina Voi Siete Qui. Ci trovate anche la foto e ci trovate soprattutto la grande mappa di Voi Siete Qui, che sta andando componendosi con tutti i racconti e tutte le foto delle persone che partecipano a questo programma, visto che questo alla fine è un programma di storie e ogni giorno ne raccontiamo una diversa. Chiudiamo a proposito della seconda volta, che la seconda volta è un po' più semplice. Non so chi mi scrive: la prima volta che mi hanno chiesto un aiuto per un trasloco è stata dura autoimpormi di andare. La seconda volta trovare una scusa per non andare invece è venuta naturale. A proposito dei racconti che continuano ad arrivare, per cui vi ringrazio, a Voi Siete Qui @radio24.it, ormai noi quando li leggiamo, io, Tiziano Bonini e Stefano D'Andrea, li dividiamo in categorie, no? In sottogruppi, e ve l'ho già detto, ci sono per lo più gruppi che riguardano, parlano d'amore, storie che, amicizia, storie che parlano di lavoro, di viaggio, di infanzia, storie che riguardano piccoli episodi minimi di vita, e poi ci sono storie che riguardano personaggi, cioè persone o personaggi che sono entrati nella vita di quelli che li scrivono e che in qualche modo gliel'hanno cambiata o che gli vengono in mente quando io gli chiedo di raccontare un episodio. In questa categoria, nei personaggi, c'è una sottocategoria che è molto frequente, che è la storia dei propri nonni. Ecco perché la storia di oggi era la storia di Laura e parlava di smarrirsi, mentre quella di domani è la storia di Francesca e parla della vita di suo nonno. C'era la guerra, che ha gettato un ragazzo di 20 anni tra la Spagna e l'Africa. L'ha fatto cadere dal cielo e l'ha tenuto prigioniero per 4 anni nel continente nero. C'era l'Argentina, il miraggio di un nuovo mondo in cui ricominciare, con una moglie e una figlia piccola. Lui ha scritto tutto, in prima persona. E poi, con grande attenzione, ha battuto a macchina le sue pagine, sulla vecchia Olivetti di mia madre, perché fossero più chiare.